perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A Istanbul un attacco kamikaze contro i turisti, almeno 10 le vittime, fra loro forse tedeschi. Berlino mette in guardia, evitate le file ai musei in Turchia. Espulsa dal Movimento 5 Stelle Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto. Fico e Di Maio replicano alle accuse, mai saputo che era stata ricattata, altrimenti avremmo denunciato. A Colonia attacchi organizzati, dice il capo dell'anticrimine tedesco, timori di ritorsioni contro gli stranieri, incidenti a Lipsia nella notte, oggi in marcia dell'estrema destra. Polemica cinese nel paese della vittima della mafia, Peppino impastato, fuochi d'artificio e festa per il compleanno centenario di un boss. A Roma va verso il cambio di allenatore, questa mattina Garcia ha diretto l'allenamento ma potrebbe presto essere sostituito da Spalletti. Festival di Sanremo, ad affiancare Carlo Conti ci saranno Gabriel Garco, l'attrice comica Virginia Raffaele e Maddalena Ghenea, la protagonista dell'ultimo film di Sorrentino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, il 349-238-6666 per scriverci via sms ed è anche il numero per il contatto su WhatsApp e anche l'email, se volete, effettogiorno@radio24.it. In apertura dunque andiamo a Istanbul, dove un attentato terroristico ha colpito una zona normalmente affollata di turisti e ci sarebbero turisti fra le vittime. In diretta dalla città, Marco Barbonaglia. Marco, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, Sultanahmet, la parte più famosa e turistica di Istanbul, il cuore storico dell'antica capitale dell'impero ottomano, in questo momento è deserta, la zona semideserta, la zona dell'ippodromo è stata colpita questa mattina poco dopo le 9 ore italiana, l'esplosione ha ucciso almeno 10 persone, ne ha ferite 15, in questo momento quella parte, diciamo quella dell'ippodromo vicino alla Berlusconi Teodosio dove c'è stata l'esplosione è sigillata dalla polizia mentre gli elicotteri continuano a sorvolare la zona. Si vede qualche turista spaesato a girarsi qua e là, ma insomma è anche bassa stagione, ricordiamo, quindi non c'è una flusso enorme di turisti per fortuna. Le ultime notizie sono le dichiarazioni del presidente Recep Tayyip Erdogan, che mezz'ora fa ha detto l'attentatore o gli attentatori sono kamikaze, ha parlato, puntato dito sull'ISIS e ha detto che sono di provenienza siriana, quindi ha indicato in maniera precisa da dove proverrebbe l'attentato. Bisogna ricordare a questo proposito che pochi giorni fa l'esercito turco aveva attaccato un campo dell'ISIS in Iraq e anche se è presto per dire se le due cose siano correlate, potrebbe essere una risposta dello Stato islamico. Marco, potrebbe essere quello che Marco, sul fronte delle vittime, a quanto pare ci sarebbero dei tedeschi, forse addirittura 9, ha scritto la Bild. Sì. Sul fronte delle vittime ci sarebbero dei turisti e questo è assolutamente probabile vista la zona frequentata primariamente dai turisti. La Bild parla di 9 tedeschi tra i morti, altre notizie parlano comunque di 6 cittadini tedeschi tra i feriti, non si parla per ora di italiani, la Farnesina sta controllando, ci sarebbero anche a quanto risulta un peruviano e un norvegese tra i feriti, comunque è quasi certo che gran parte dei feriti siano turisti. Qualcuno può essere un turista turco, ma molti saranno di provenienza internazionale. Di provenienza internazionale. Allora io intanto ti ringrazio, grazie a Marco Barbonaglia in diretta da Istanbul, col quale torneremo a collegarci più avanti nel corso della trasmissione per tornare a fare un punto su quello che succede e sui dettagli che emergeranno nel corso appunto della trasmissione, nel corso della prossima ora. Nel frattempo passiamo alla politica, iniziando dalla vicenda del comune di Quarto. Rosa Capuozzo, sindaco del comune, è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. Dopo l'invito a dimettersi per Rosa Capuozzo scatta la procedura di espulsione dal Movimento 5 Stelle. A comunicarlo dal suo blog stamattina è lo stesso Beppe Grillo, secondo il quale il sindaco di Quarto avrebbe violato i principi secondo i quali ogni primo cittadino pentastellato ha il dovere di denunciare immediatamente alle autorità ogni ricatto o minaccia che riceve. Capuozzo dal canto suo non ha ancora sciolto la riserva sulle dimissioni e nonostante l'espulsione potrebbe decidere di restare al suo posto, rinunciando però al simbolo del movimento. Nel frattempo però fa discutere il contenuto di un'intercettazione telefonica nella quale già a novembre la sindaca affermava di aver avvertito i vertici pentastellati, in particolare Di Maio e Fico, della faida in corso a Quarto e del ricatto subito da parte di Giovanni De Robbio, il consigliere comunale espulso a dicembre dal movimento e indagato dalla Procura di Napoli per voto di scambio politico-mafioso. Immediati gli attacchi da parte del Partito Democratico Democratico, ma anche dalla Lega, a fondi ai quali replica così lo stesso Fico. Io e Luigi non abbiamo mai saputo di nessun ricatto, di nessuna minaccia, di nessuno scambio tramite minaccia per ottenere qualcosa. Sono cose di cui noi siamo all'oscuro completamente, perché se l'avessimo saputo è chiaro che avremmo optato per una denuncia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche di questi temi ha parlato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervenendo a tutto campo, ospite Repubblica TV. Facciamo un punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì Simone, allora Matteo Renzi ribadisce quanto detto in precedenza sulle riforme costituzionali, il referendum sarà anche sul suo governo dopo il voto alla Camera di ieri in cui il Premier ha parlato di maggioranza schiacciante, oggi è intervenuto a Repubblica TV e sentiamo cosa ha detto sulle riforme. Facendo credo un gesto di coraggio ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa ma smetto di far politica. Che magari è un incentivo per tanti per andare a votare contro. Renzi, come hai detto tu, ha parlato anche del caso Quarto e dei rapporti con il Movimento 5 Stelle. Pensa che il sindaco Rosa Capuozzo avrebbe dovuto denunciare chi la minacciava, ma non deve dimettersi. Io sono garantista, dice il Premier, l'idea che 5 Stelle abbiano il monopolio della morale per noi non è mai esistita. Adesso penso che sia venuta meno anche per gli elettori. Renzi poi non risponde direttamente alla candidatura di Roberto Giachetti sul Campidoglio, ma dice certo conosce meglio Roma di chiunque altro. Il Premier è favorevole ad una commissione d'inchiesta sulle banche e non però su una banca, in questo caso l'Etruria, e la linea del PD è che chi ha il padre indagato non deve dimettersi, la responsabilità penale in Italia è personale. Solidarietà poi sull'attentato di Istanbul e Renzi è intervenuto anche sul reato di clandestinità. Sentiamo. Ci vuole una normativa, la dico in modo un pochino più sbrigativo, che mentre abolisce il reato di clandestinità, che non serve a niente, lo dicono tutti, contemporaneamente sia molto più dura verso più veloce nei processi di espulsione, più dura verso chi delinque. E grazie ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Dunque, come avete sentito, il Presidente del Consiglio ha parlato di clandestinità, ma ci sono una serie di reati che sarebbero vicini, almeno secondo uno schema di decreto del Governo, alla depenalizzazione. Si parla anche di patenti, oltre che di cannabis. La delega scade il 17 gennaio, dunque bisogna fare in fretta per mettere mano al capitolo depenalizzazioni, dal quale è già stato stralciato il reato di immigrazione clandestina. Non ha funzionato, ha ammesso il ministro Alfano, ma NCD è contraria a depenalizzarlo. Strada che invece intende ancora seguire il ministro Orlando. Facciamo in modo tale che le modalità di rimpatrio siano più semplici, che le procedure di riconoscimento siano più semplici e contemporaneamente si toglie questo simulacro di reato, perché poi non riesce mai veramente a mordere il fenomeno. Credo che sia un modo di ottenere lo stesso risultato. Dal capitolo è scomparso anche il disturbo della quiete notturna. Restando il penale, i cittadini potranno continuare a chiamare polizia e carabinieri. In forse anche la violazione delle norme che regolano la coltivazione della cannabis per scopi terapeutici. Potrebbe invece restare in agenda la guida senza patente, con una multa salatissima la prima volta che si viene sorpresi al volante senza aver conseguito l'esame, o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti fisici o mentali. L'arresto scatterebbe dalla seconda volta in poi, un impianto che però ha già fatto storcere il naso a qualcuno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Germania adesso, innanzitutto con una notizia che è appena stata battuta dalle agenzie e riguarda, ed è una dichiarazione congiunta dei ministri dell'interno e della giustizia tedeschi, i quali annunciano l'accordo per l'inasprimento delle leggi sul diritto d'asilo, in conseguenza anche dei fatti che sono avvenuti a Colonia con le numerose violenze, le 500 denunce per le violenze nella notte di Capodanno. I timori che il clima si surriscaldi, si moltiplichino, le spedizioni punitive nei confronti di migranti evidentemente crescono. Anche oggi ci facciamo aiutare per capire qual è anche il clima in città dai colleghi giornalisti di Radio Colonia, un programma in lingua italiana della radio pubblica VDR nel palinsesto di Funkhaus Europa. Tra l'altro potete andare sul sito e sentire il lavoro che fanno. Oggi abbiamo in linea Agnese Franceschini. Agnese, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che clima si respira in città? È un clima abbastanza pesante, vale a dire che tra una cosa e l'altra, questa mattina ad esempio è pieno di polizia, la polizia fa delle vere e proprie ronde per impedire che ci sia di nuovo questa caccia allo straniero, soprattutto qua attorno alla stazione e attorno al Duomo. Quindi si incontrano molti poliziotti, questa è una cosa abbastanza insolita in Germania in generale e in particolare a Colonia. Quindi questo è proprio il clima che si respira. Poi vabbè, facevi cenno a quello che è il discorso del clima politico, quello è ancora più confuso e vengono prese diverse iniziative, si cerca di prendere diverse iniziative, ma sono tutte abbastanza aleatorie, anche queste. Le leggi, l'inasprimento delle leggi per il diritto d'asilo sarebbe la terza volta, una proposta che poi viene dall'SPD, da Gabriel dell'SPD, è una proposta che già si sa che non potrà essere attuata, vale a dire il fatto vogliono un po' disperdere i rifugiati che sono arrivati a Colonia, ma non solo a Colonia, tutta la Germania, e quindi vogliono dare loro come una specie di obbligo di residenza dove decide lo Stato, ma questo è contrario a un'altra legge e quindi questo probabilmente non si potrà nemmeno fare, cioè quello che si sta cercando di fare è di un po' buttare del fumo per non affrontare poi il problema, quello alla radice. E senti Agnese, dal lato delle indagini invece c'è stata molta confusione sul tema se queste aggressioni di Capodanno fossero organizzate oppure no. Mi sembra che oggi l'anticrimine federale tedesca abbia detto delle parole abbastanza chiare: organizzate sì, ma dietro non c'è la criminalità organizzata. Sì, è probabile che abbiano ragione, finalmente forse arrivano delle parole chiare, no? È stato detto di tutto, è chiaro che devono essere organizzate, perché non solo questi foglietti che hanno trovato con la traduzione arabo-tedesco di come si può insultare una donna o altro, ma e quindi questi foglietti qualcuno l'ha scritto, ma anche il fatto che qua a Colonia ad esempio non ci sono così tanti nordafricani, cioè è una zona di immigrazione di turchi, che è una zona dove sono arrivati magari anche molti rifugiati siriani, ma visto che si sta vedendo che per lo più sono dal Marocco e dalla Tunisia, questa non è una zona dove sono così tanti, forse in tutta Colonia sono 180 e allora è chiaro che sono venuti da fuori, qualcuno deve aver pagato loro il biglietto, aver detto dove andare, che cosa fare. Questo è una cosa abbastanza sicura, in questo senso devono essere organizzati. Da chi e come ovviamente è un altro conto. Io ti ringrazio, grazie ad Agnese Franceschini, giornalista di Radio Colonia, lo ripetiamo, programma radiofonico in lingua italiana del palinsesto di Funkhaus Europa, si scrive Funkhaus con l'H in mezzo, se lo volete cercare su internet e andare a sentire appunto il lavoro che fanno questi colleghi. Anche oggi, e torniamo all'Italia, sono tornati in piazza gli investitori che hanno perso tutta una parte del loro patrimonio con l'azzeramento di azioni e obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cari Ferrara. Giorgio Stamatopoulos ha seguito la manifestazione, nel frattempo è anche in corso l'incontro tra Nicastro, il presidente delle nuove quattro banche, e i sindacati dei bancari. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, sì, l'incontro è ancora in corso, anche se sappiamo che Nicastro dall'una in poi è atteso al MEF e dunque dovrebbe concludersi a momenti questo incontro. Intanto la manifestazione di questa mattina, una sorta di riedizione di quanto abbiamo già visto sotto la sede di Banca Italia il 22 dicembre scorso e poi sotto la storica sede ad Arezzo di Banca Etruria. I risparmiatori organizzati, supportati anche da alcune associazioni di consumatori, sono tornati in piazza con le loro invettive, i loro striscioni, stavolta sotto alla sede dell'autorità di controllo della borsa, per ribadire che a loro non ci stanno al piano predisposto dal governo col famigerato decreto del 22 novembre scorso, ovvero l'arbitrato, che tra l'altro reputano incapiente, solo 100 milioni ormai la cifra per indennizzare i più colpiti tra i risparmiatori che hanno sottoscritto inconsapevolmente le famigerate subordinate, obbligazioni subordinate, sono comunque almeno il triplo, una folta rappresentanza. Dunque dicevamo che è arrivata attraverso l'organizzazione di Pullman da varie regioni, le più colpite e interessate, la Toscana, l'Umbria e l'Emilia Romagna in particolare. La contestazione alla Consob, lo sapete, verte sui mancati, presunti mancati controlli, il mancato intervento per impedire alle banche italiane di vendere queste subordinate ai piccoli risparmiatori, al retail cosiddetto. L'incontro con i sindacati oggi è Nicastro Castro, che appunto, come ricordavi, è il presidente della governance di queste New Bank, verte su alcune questioni che riguardano ovviamente soprattutto i lavoratori, quelli delle New Bank, ma anche quelli della Big Bank, che fine faranno. L'interesse della governance della New Bank è ovviamente presentarsi, sì, avendo messo a posto anche questo tassello all'appuntamento poi in primavera con l'asta, sperando appunto poi che dei compratori stranieri, dei grossi gruppi, insomma, trovino il prodotto migliore possibile. Certo, tra i punti dell'incontro, sì, l'allargamento del fondo per i risparmiatori, la necessità di coprire legalmente, sì, e penalmente i lavoratori che sono rimasti coinvolti in tutta questa faccenda loro malgrado, insomma, chiedono tutele penali e in sede anche civile. E io ti ringrazio, grazie a Giorgio Stamatopoulos, che ha ricordato giustamente anche che ci sono molti lavoratori di queste stesse quattro banche che sono rimasti, per così dire, senza una parte del loro patrimonio a causa dell'azzeramento di azioni e obbligazioni, erano azionisti e obbligazionisti. Prima di chiudere, di andare al traffico, facciamo un punto da una parte sullo sport e dall'altra sullo spettacolo. Iniziamo dallo sport, con l'attenzione Carlo Genta concentrata evidentemente sulla Roma. Garcia, che oggi torna, dirige l'allenamento, ma chissà per quanti giorni ancora. Pochi, credo, Simone, pochi, perché probabilmente siamo arrivati al momento cruciale dell'esonero dell'allenatore francese. Allora, le ultime dicono che ieri Sabatini è andato a Firenze e ha parlato con Spalletti, che Spalletti è in viaggio verso Miami per incontrare Pallotta insieme a Baldissoni. Tra l'altro è uscita ora un'ultima, secondo la quale è stata chiesta, è stato allertato Alberto De Rossi, che è papà di Daniele e che è allenatore della Primavera, per condurre temporaneamente la squadra. Quindi Garcia ha diretto l'allenamento di questa mattina, ma non sono così sicuro che sarà l'allenatore della Roma questa sera. Questa è la situazione, cronaca totalmente in divenire. Vedremo che cosa succederà dunque, e sicuramente vi aggiorneremo anche nel corso di tutti i convocati a partire dalle 14. Adesso passiamo allo spettacolo. Questa mattina è stato finalmente presentato il Festival di Sanremo. Abbiamo con noi la nostra Marta Cagnola. Allora Marta, eccoci. Simone, cosa abbiamo? Cosa offre il menù? Tra l'altro tu lo seguirai, so. Sì, ovviamente lo seguirò, è immancabile. A proposito di menù, l'anno scorso Carlo Conti ha detto che era una Macedonia, quest'anno ha cambiato, ha detto che è un mosaico. Ma le novità della conferenza stampa di presentazione, come al solito, sono i co-conduttori e gli ospiti. I co-conduttori saranno Virginia Raffaele, Maddalena Ghenea, attrice e modella, l'abbiamo vista in Youth di Paolo Sorrentino, e Gabriel Garco, a sorpresa. E poi ci saranno come super ospiti italiani, tutti confermati, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Ipu e Renato Zero. Trattative sugli ospiti stranieri, ancora nessun annuncio perché non ci sono nomi. Meccanismo di voto come quello dell'anno scorso, con in più una novità: la penultima serata, il venerdì, non verranno eliminati quattro brani, ma verranno rivelati cinque nomi degli ultimi in classifica, quindi uno verrà ripescato dal pubblico. Infine, una notazione importante: il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, ha detto che sarà certo un festival all'insegna della musica e dell'allegria, ma anche della sicurezza, perché sarà il festival delle grandi misure di sicurezza per la prima volta. Ti ringrazio, grazie alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, sentiamo con un po' di ritardo, sentiamo che cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Andremo a parlare ancora di Germania e di immigrati, andremo sul confine tra Germania e Danimarca, torneremo a parlare del Movimento 5 Stelle, della vicenda di Quarto. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: Istanbul, un attacco kamikaze contro i turisti, almeno 10 le vittime, fra loro forse tedeschi. Berlino mette in guardia, evitate le file ai musei. Il premier francese ha commentato pochi istanti fa, dice: è una guerra. È stata espulsa dal Movimento 5 Stelle Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto. Fico e Di Maio replicano alle accuse: mai saputo che era stata ricattata, altrimenti avremmo denunciato, ne riparleremo tra un attimo. L'omicidio della ragazza americana a Firenze, è stata strangolata, ma notizia di poco fa, non ci sarebbero segni di lotta. E un'altra notizia di poco fa è una dichiarazione del presidente della Commissione Difesa del Senato, Nicola Latorre. Massimiliano Latorre non tornerà in India, uno dei due marò, e anzi si stanno approfondendo le possibilità per chiedere che anche Salvatore Girone rientri in Italia. Questa la notizia fornita appunto dal presidente della Commissione Difesa. A Colonia, infine, attacchi organizzati, dice il capo dell'anticrimine tedesco, timori di ritorsioni contro gli stranieri, incidenti a Lipsia nella notte. Torniamo dunque sulla vicenda di Quarto e sull'espulsione del sindaco Rosa Capuozzo, un'espulsione decisa questa mattina e annunciata tramite il blog di Beppe Grillo, poi oggi è arrivata anche la difesa dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, un comportamento quello di Rosa Capuozzo che però, a giudicare dalle intercettazioni, al di là dell'aver mancato di denunciare eventuali ricatti o pressioni, non sarebbe stato grave, anzi sarebbe stato un sostanziale rifiuto di sottostare a questi ricatti. Siamo partiti proprio da qua e ne abbiamo parlato con Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle. Un comportamento dunque, quello della Capuozzo, non particolarmente grave, e perché il Movimento ha deciso di espellerla. La ringrazio per questa domanda. Prima di tutto va chiarito che la camorra e le mafie del Movimento 5 Stelle hanno ottenuto zero, mentre negli altri comuni hanno ottenuto milioni e milioni di euro in vari appalti. Noi pensiamo come Movimento 5 Stelle che l'esempio sia più importante della poltrona, e se è vero che il sindaco è parte lesa che ha avuto questo comportamento comunque di contrasto alla camorra e alle richieste che arrivavano, è comunque doveroso dare un esempio, e se minaccia c'è stata, lei a quel punto aveva il dovere di denunciarlo. Ecco, su quindi questo... il motivo per il quale noi abbiamo chiesto prima le dimissioni, e nel momento in cui non sono state accettate, non si è dimessa, abbiamo provveduto con l'espulsione, visto quello che è emerso anche nelle ultime ore. Ecco, su questo punto, sul punto della denuncia delle pressioni ricevute o eventuali ricatti, questo sarà da appurare in sede giudiziaria, c'è uno snodo importante, c'è lo snodo del ruolo di Luigi Di Maio e Roberto Fico, con i quali, secondo quanto risulterebbe da alcune carte dell'inchiesta, la Capuozzo avrebbe parlato e avrebbe detto che questi ricatti ci sono stati. E quindi qualcuno dice, insomma, se Di Maio e Fico sapevano, perché non hanno denunciato loro? Perché in realtà non sapevano. Non è vero quello che si sta dicendo sui miei colleghi Fico e Di Maio, e a questo noi rispondiamo: pubblicate tutte le intercettazioni, non alcune parti, pubblicatele tutte, perché se tutte le intercettazioni verranno pubblicate emergerà l'assoluta correttezza di comportamento e buona fede da parte dei miei colleghi. Quindi il Movimento 5 Stelle si dimostra totalmente diverso dagli altri partiti, non siamo neanche paragonabili, quindi ripetiamo, pubblicate tutto, perché se tutto uscirà si noterà la differenza epocale rispetto a tutti gli altri. Partiranno anche delle querele, mi è sembrato di capire, Nuti? Se ce ne saranno i presupposti, se qualcuno inizierà a spargere questo fango sui colleghi dicendo falsità, è chiaro che non ci tireremo indietro da fare eventuali querele, perché se una persona non ha fatto quello di cui viene accusata, è chiaro che a quel punto la querela ci sta tutta. Si andrà ad elezioni a Quarto. È ipotizzabile che venga ricandidata la Capuozzo? Ma questo non è un elemento che si può decidere in questo momento, ma in genere, per quello che sono il nostro modo di fare, quando una persona viene espulsa non viene ricandidata con il Movimento 5 Stelle. Poi è chiaro che una persona si può ricandidare con qualunque altro partito, con qualunque altro lista civica, quello che vuole, ma con il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui si viene espulsi, non penso che si potrà ricandidare. Poi comunque non è una decisione che spetta a me, però per quello che è il nostro iter penso di poterlo dire tranquillamente. Vi ha danneggiati questa vicenda? No, a noi ci fa solo bene, ripeto, più escono cose su Quarto, le intercettazioni, più si nota la totale differenza fra noi e gli altri. C'è chi voleva distruggere le intercettazioni e invece ora c'è un movimento che dice pubblicate tutte le intercettazioni, qualcosa di storico dal punto di vista, cioè positivamente storico, cioè è una cosa meravigliosa, quindi più se ne parla e meglio è per noi. Così dunque Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle. Continuiamo a parlare, visto che abbiamo parlato di un caso che lambisce la camorra, per così dire, continuiamo a parlare di criminalità organizzata, ma per tutt'altro tema. Una festa per il boss nel paese di Peppino Impastato. L'analisi di Daniele Biacchessi. Chinisi è un piccolo paese a pochi chilometri da Palermo. In quel luogo, il 9 maggio 1978, i sicari di Don Tano Badalamenti fermarono il cammino di Peppino Impastato, giovane attivista antimafia che si opponeva tramite Radio Out al potere economico e criminale delle cosche vincenti nel palermitano. A Chinisi l'impegno di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, della madre Felice Bartolotta, degli amici, è nato nel tempo un movimento antimafia radicato nel territorio. A poco più di 100 passi dal luogo in cui venne ammazzato Peppino, lo scorso 6 gennaio si sono festeggiati, con fuochi d'artificio e tanto di cena di gala, i 100 anni del capomafia più anziano del mondo, Procopio Di Maggio, l'unico padrino della cupola di Totorina rimasto in libertà. Nell'intento degli organizzatori, cioè la mafia di Chinisi, la festa doveva avere il gusto beffardo della sfida alla memoria di Peppino. Alla cena sono stati invitati alcuni parenti del centenario che vivono da anni negli Stati Uniti. E per rendere ancora più imponente la sfida, foto e video hanno invaso Facebook, con tanto di post inneggianti al puparo e centinaia di likes. Il sindaco di Chinisi afferma oggi che quel paese non è mafioso. È vero. Ma le cosche moderne non uccidono più come nel 78. Cambiano pelle, si adeguano ai tempi e comunicano la loro potenza anche attraverso l'immagine che passa su internet. Così dunque il nostro Daniele Biacchesi nella sua consueta analisi del martedì. Noi cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo sul confine tra Germania e Danimarca, dove sono stati chiusi i confini, o quantomeno dove sono stati ripristinati i controlli, e dove c'è la nostra inviata Raffaella Calandra per raccontarci un po' come vanno le cose, che cosa ha visto in queste ore, quali voci ha raccolto. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno da Flensburg. È qui in questa piccola stazione tra blocchi di ghiaccio e nebbia fitta la nuova porta stretta di Europa, qui appunto in questa città che per anni è stata danese e ora invece è il comune più a nord della Germania e che è l'ultima città dove i migranti sanno di poter arrivare senza problemi con i loro tanti bambini e il più delle volte nessuna giacca invernale. È in questa piccola stazione, dicevo, diventata come una sorta di centro d'accoglienza che si vedono ora gli effetti della chiusura dell'intera penisola scandinava. Prima la Svezia, poi la Danimarca hanno ripristinato infatti i controlli dal 4 gennaio e rimandano indietro chi non abbia i documenti in ordine. Io ho viaggiato per quasi tutta la Germania in treno, che è il mezzo più usato dai profughi, e poi da Amburgo a qui a Flensburg ho viaggiato quasi soltanto con gruppi di famiglie di iracheni, siriani, afghani, diretti soprattutto in Svezia o Danimarca. Quasi nessuno alla fine parla inglese o tedesco, molti non sanno neanche che Flensburg è ancora Germania, ma qui tutti invece sono preparati a trovarsi di fronte i poliziotti danesi sui treni che ora dal 4 gennaio salgono e chiedono i documenti a tutti. Quasi 100.000 migranti, stima Flensburg, Heinz Nermen Jevenski, che coordina i volontari, sono passati da settembre a dicembre da qui. Possiamo sentirlo in sottofondo. Wenn hier Flüchtlinge ankommen, kriegen sie zuerst was zu essen. Qui ci racconta che quando arrivano i migranti ricevono cibo, ricevono da bere, diamo loro vestiti perché arrivano con i pantaloncini corti e i sandali, ci dice, nessuna sciarpa né cappello per affrontare il grande freddo. Ci prendiamo cura dei bambini, ci racconta, ma soprattutto lui stesso si è reso conto come almeno 15-20 persone al giorno vengano ora respinte dalla Danimarca. Ed è stato invece proprio in prigione, perché non aveva i documenti adatti, un ragazzo iracheno, Aziz, che ho incontrato, sentiamolo. Ci racconta come il 6 gennaio voleva andare in Germania, in Danimarca, dalla Germania, ed è stato invece 3 giorni in prigione in Danimarca perché non aveva i documenti adeguati. Cioè, che vuol dire? Lui ha fatto domanda di asilo in Germania e quindi non poteva entrare in Danimarca, per la Danimarca è un migrante clandestino, insomma illegale, per cui l'hanno tenuto 3 giorni in prigione e poi l'hanno rispedito indietro. Questa situazione che cosa sta provocando? Che molti che vogliono soprattutto andare in Svezia, in realtà ancor più che in Danimarca, anche se il clima cambiato in Germania ci ha fatto capire che alcuni ora in realtà decidono anche di andare in Danimarca pur di lasciare la Germania, sta industriando, come sempre alimentando l'industria l'industria dei trafficanti di uomini, di persone che cercano di condurre i migranti dall'altra parte bypassando i controlli che i poliziotti fanno a Podgorica. Io sono stata con una famiglia di iracheni fino a Podgorica, che è il primo comune danese. Lì la polizia è salita, ha chiesto i documenti a tutti, a loro li ha fatti scendere, ha perquisito i loro bagagli. Dopodiché questa famiglia, fortunatamente per loro, aveva i documenti in ordine perché non aveva ancora fatto richiesta di asilo da nessuna parte, vogliono restare in Danimarca, quindi li hanno caricati su un pulmino e li hanno portati in un centro di accoglienza. In altri casi invece la trafila è almeno 3 giorni in prigione, se non di più, e poi rispediti in Germania. Simone. Allora, grazie alla nostra Raffaella Calandra per questo racconto. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa tra un attimo, e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo a parlare di Turchia, andremo a sentire quali sono gli aggiornamenti da Istanbul, dove, lo ricordiamo, la nostra notizia di apertura, è esplosa una bomba in una zona turistica e ci sono state almeno 10 vittime, forse alcuni turisti, probabilmente dei tedeschi, e poi torneremo sulla vicenda della ragazza che è stata uccisa a Firenze. È un mistero in queste ore su chi possa essere stato. Di certo le ultime notizie ci dicono che non ci sono segni di lotta. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. A Istanbul innanzitutto l'attacco kamikaze contro i turisti, principalmente stranieri tra le vittime, lo ha detto pochi istanti fa il vice premier turco, che ha confermato che l'attacco sarebbe stato portato da un kamikaze siriano di 28 anni. I morti sono almeno 10. È stata espulsa dal Movimento 5 Stelle Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto. Fico e Di Maio replicano le accuse, non abbiamo mai saputo che era stata ricattata, altrimenti avremmo denunciato. A Colonia ci sono stati attacchi organizzati nella notte di Capodanno, lo dice il capo dell'anticrimine tedesco, ci sono timori di ritorsioni contro gli stranieri, ci sono stati incidenti a Lipsia nella notte e oggi è in corso sempre a Lipsia una marcia dell'estrema destra. La Roma verso il cambio di allenatore, questa mattina Garcia ha diretto l'allenamento ma potrebbe essere presto sostituito da Spalletti. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per tornare innanzitutto a collegarci con Istanbul e per avere un quadro della situazione dopo l'attentato che ha colpito questa mattina una delle zone più turistiche della città. Marco Barbonaglia, buongiorno di nuovo. Buongiorno Simone, le ultime notizie dopo la riunione d'emergenza tenuta dal Premier con i ministri della Salute, dell'Interno e degli Esteri parlano di un siriano 27enne che sarebbe l'autore di questo attentato, a questo punto kamikaze. Già Recep Tayyip Erdogan aveva detto si tratta di un attentato kamikaze di origine siriana, questa è la conferma e si parla appunto di un siriano di 27 anni, la maggior parte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, si parla di tedeschi, si parla di un norvegese, di un peruviano. La situazione in questo momento sta tornando lentamente alla seconda normalità, ad una maggiore calma. Qui in questo momento i negozianti, i canarieri parlano malvolentieri, soprattutto davanti alle telecamere e ai microfoni, ma insomma mi hanno detto di aver sentito una forte esplosione, qualcuno dice di aver intravisto il kamikaze avvicinarsi alla zona. Per dare un'idea di come la città sta vivendo questi momenti, posso dire che questa mattina quando ho preso il Marmaray per arrivare qua, il treno che passa sotto il Bosforo, contando che molti traghetti sono bloccati per un forte vento, c'era un clima surreale, il Marmaray era quasi completamente deserto, cosa che non si vede mai ad Istanbul, quindi insomma la tensione è veramente molto forte in questo momento. Attenzione, Istanbul è tutto. Sì, no, Marco, no, non è tutto, perché abbiamo una domanda per te sul fronte ancora delle vittime. Come dicevi, il vice premier turco dice che tra le vittime ci sono prevalentemente stranieri. Ci dicevi, le notizie rimangono a quello a cui stavamo nella prima parte della trasmissione, cioè tedeschi prevalentemente, ma non si sa esattamente quanti siano. Non si sa esattamente quanti siano, non è in effetti confermato dal vice primo ministro, che non ha parlato di questo, ha detto che sono per la maggior parte stranieri, mentre i 9 tedeschi dei quali si parla che sarebbero tra le vittime, bisogna usare il condizionale, siamo sempre al dato citato da Bild per il momento. Ti ringrazio, grazie a Marco Barbonaglia in collegamento da Istanbul per questo aggiornamento. E per rimanere all'estero, ci sono notizie che arrivano da Madaya, la vicenda ve l'abbiamo raccontata anche nei giorni scorsi, la città in Siria assediata, nella quale sono finalmente arrivato ieri un convoglio umanitario composto da UNICEF, Croce Rossa Internazionale, Medici Senza Frontiere. Ebbene, 300 civili sono stati evacuati questa mattina dalla città assediata, sono bisognosi di cure urgenti, e questo è quello che riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che è un ONG basata a Londra, un ONG siriana basata a Londra. Ieri il responsabile delle attività umanitarie dell'ONU aveva parlato di 400 persone che dovevano essere evacuate immediatamente a causa delle loro condizioni. Stiamo cercando di rintracciare qualcuno degli operatori umanitari che si trovino a Madaya, cercheremo nelle prossime ore, magari per la trasmissione domani di Effetto Giorno, di trovare qualcuno che ci racconti un po' meglio che cosa ha trovato là. Noi adesso passiamo alla cronaca italiana e alla vicenda della ragazza americana che è stata uccisa a Firenze, un vero e proprio mistero in queste ore che gli investigatori stanno cercando di risolvere. Parliamo con Stefano Brogioni, che è un collega giornalista della Nazione e che sta seguendo il caso ed è un cronista appunto della Nazione. Stefano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, quali sono le ultime? Le ultime sono che Ashley Olsen non è stata uccisa a mani nude, ovvero quindi è morta quindi per strangolamento, e l'assassino avrebbe usato qualcosa, un'arma che potrebbe essere dei lacci o un cavo, come peraltro è stato reperto nell'appartamento. Queste sono le ultimissime indiscrezioni di una lunghissima autopsia iniziata ieri. Caduti i sospetti sul fidanzato ieri, che avrebbe, suo ex fidanzato, che avrebbe un alibi di ferro, su cosa stanno lavorando gli investigatori in queste ore per cercare di arrivare all'eventuale assassino? Stanno cercando di capire quello che lei ha fatto nelle ultime ore. Innanzitutto, torno un attimo indietro, perdonatemi, l'autopsia al momento non ha però chiarito qual è l'ora esatta del decesso. Tuttavia si sta notevolmente restringendo il campo, siamo nelle prime ore del mattino di venerdì, quindi il giovedì sera lei esce con delle amiche, va in un locale notturno, intorno alle 3, 3 e mezzo, 4, massimo resta sola perché le amiche vanno a casa, lei invece dice che rimane lì, e a quel punto insomma tra le 4 del mattino e l'orario poi in cui compatibilmente gli impulsi elettronici sia degli apparecchi che lei aveva in casa finiscono, insomma, si scaricano, quindi le prime ore del mattino di venerdì, quindi 4-5 ore in cui lei potrebbe aver incontrato, chiamato, più probabilmente chattato tramite le chat di Facebook o di WhatsApp con il telefonino, e avrà avuto appunto contatti con qualcuno che poi è salito in quella casa. Un'ultima domanda, Stefano, e molto brevemente: da quel che abbiamo letto non ci sarebbero segni di lotta? Non ci sarebbero segni di lotta, e questo può essere interpretato in mille modi, perché insomma, lei è lì con una persona che conosce, in intimità alla fine, perché comunque viene ritrovata nuda con soltanto i calzini addosso, cioè, solamente insomma, con chi si ha un po' di confidenza, magari pregressa, ci si libera, a meno che insomma, e l'autopsia dovrà chiarire anche questo, perché sono stati fatti gli esami tossicologici, non fosse nel pieno, insomma, fosse un po' alterata, adesso non fosse questo, pienamente lucida. E questo lo dovrà chiarire appunto l'autopsia. Grazie a Stefano Brogioni, cronista della Nazione, al quale auguro una buona giornata. Il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.